in primo piano. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori della rassegna stampa, in studio Angelo Miotto. Vediamo subito i titoli dei giornali, dei quotidiani qui in studio. La Repubblica apre oggi con il PD, si spacca sulle primarie, Epifani no al segretario premier, renziani e giovani turchi in rivolta. La fotografia piccola è per Guglielmo Epifani, che si sta compulsando la fronte con la mano in un gesto di evidente stanchezza. La foto grande invece di Repubblica va sull'Egitto, che è un altro tema che troverete su tutti i quotidiani. Egitto nel caos, scrive Repubblica, 5 morti negli scontri. Tunisia invece, accusati salafiti per l'omicidio del capo dell'opposizione. Anche in Tunisia manifestazioni dopo questo attentato. Restiamo un attimo su Repubblica e vediamo quelli che sono gli editoriali oggi. L'analisi è quella di Claudio Tito, il vaso di coccio della maggioranza. Invece il caso riguarda il PD con Curzio Maltese, che graffia quando le regole cambiano in corsa. E ovviamente il protagonista di questi ragionamenti è Matteo Renzi. Repubblica poi nell'inchiesta dice addio al 27, lo stipendio arriva sempre in ritardo, la patente a punti anche per scooter e minicar, siamo invece a piedi pagina. E sempre a piedi pagina troverete una lettera che probabilmente farà discutere, è firmata soltanto con un nome, probabilmente di fantasia, Giulia, la mia vita prigioniera in fuga dall'amore violento. Il Corriere della Sera, le province restano senza poteri, questa è l'apertura, la vignetta di Giannelli è sulla stabilità, si vede Italia varia al mare, negli stabilimenti balneari c'è il marito che dice alla moglie, intese sempre più larghe, sembra che la Cassazione entri nella maggioranza. Foto centrale anche qui per l'Egitto, trascinato in un vicolo cieco, ci dice Franco Venturini. Invece l'editoriale di Francesco Giavazzi di spalla è la circolare degli equivoci sulla stabilità, la affidabilità del paese. Ancora il caso di razzismo, il ministro Cervi a banane lanciate sul palco contro Chieng, scrive il Corriere della Sera. Anche qui la patente a punti per i motorini, che è una di quelle notizie che evidentemente attira soprattutto per la popolazione giovane. Il Sole 24 Ore, esteso l'ecobonus del 65%, questa è l'apertura, agevolati i lavori antisismici per prima casa e stabilimenti, approvato in commissione alla Camera lo sconto nelle zone più a rischio, lunedì il voto in aula. E sulla carta salmonata del Sole 24 Ore, tassi, l'asta CTZ allenta la tensione, effetto positivo sui BTP, ma lo spread sale a 274, borse contrastate. E poi segnaliamo un'intervista a Frédéric Oudéa, l'unione bancaria salverà l'eurozona. La Stampa, il quotidiano diretto da Mario Calabresi, con Shalabayeva, polizia sotto accusa, questa l'apertura, al Tribunale di Roma nascosta al giudice di pace la vera identità della donna. Qui la fotografia grande invece per un fatto che è avvenuto a Genova, di cui si è parlato molto in questi giorni, per i delfini una casa mai vista, la fotografia ritrae un gruppo di bambini piuttosto colpiti e attenti rispetto alle evoluzioni dei mammiferi che nuotano in questa grande piscina, inaugurato l'acquario, il padiglione dei cetacei progettato da Renzo Piano. Per l'economia, a passo lento la ripresa si avvicina, con Mario Deaglio, mentre si parla di crowdfunding, le collette per il rilancio, con Juan Carlos De Martin. In basso, a piedi pagina, c'è Alberto Mattioli, inviato a Santiago de Compostela, teatro dell'orribile incidente dei giorni scorsi, che ci parla dell'unica vittima italiana a Santiago. Darian seguiva l'amore sul treno, impazzito, aveva perso, come avete sentito, l'aereo. L'Unità, e qui c'è un titolo ovviamente a tutta pagina, congresso PD, duello sulle regole, Epifani, elegge un segretario, non un candidato premier, Franceschini, allora votino solo gli iscritti. Renzi e Cooper lo insorgono, le regole non si cambiano, la direzione riprenderà la prossima settimana, il 30 novembre, la data del congresso. Staino nella sua vignetta, la bimba guarda il padre, scontro in direzione PD rinviata, il padre risponde, adesso capisco perché l'avevano anticipata. Fotografia centrale anche qui per Morsi agli arresti, l'Egitto è nel caos. E poi a piedi pagina segnaliamo Provenzano, basta 41 bis, richiesta firmata da tre procure, è molto malato ma scoppia la polemica. Scusate, il manifesto autunno arabo, la fotografia per Piazza Tahrir, gremita di folla, due enormi manifestazioni contrapposte occupano il Cairo, scrive il manifesto, blindata dai carri armati. Morti e feriti negli scontri, l'ultimatum dell'esercito ai fratelli musulmani decisi a resistere a oltranza, si teme il bagno di sangue. E in Tunisia l'opposizione in piazza accusa il governo dopo l'uccisione del leader del Fronte Popolare. Sul manifesto troviamo, in una specie di falsa apertura, Matteo Renzi, scontro totale sul congresso, sul voto di iscritti al PD. Di spalla sono tre richiami, il primo sulla mafia a Roma, la piovra spadroneggia ed è capitata la cupola. Il secondo per i Notav, Val di Susa, oggi riparte la marcia dei sindaci. Infine, Letta alla NATO, rimarremo in Afghanistan oltre il 2014. Piedi pagina sul manifesto troviamo anche un interessante richiamo ai beni comuni, larghe intese contro l'acqua pubblica, lo vediamo nella seconda parte della rassegna stampa. Proseguiamo la carrellata dei titoli, vediamo questa volta il Fatto Quotidiano. La Costituzione stracciata, spacca il Parlamento, c'è l'ostruzionismo dei 5 Stelle, l'opposizione di SEL, dice il Fatto, che strappano il rinvio a settembre del voto sulla controriforma costituzionale. Rosi Bindi rompe il velo di omertà dei democratici, due punti, virgolette, non sacrificherò la carta a questo governo. Ma il Premier Letta tira dritto, chi non ci sta vuole rompere il sistema. L'appello sul sito del Fatto, raccolte 30.000 firme in poche ore. Alfano nomina un'indagata al posto di un arrestato, questo è il titolo dei giri di poltrone al Viminale. Dopo il caso Kazako, il vice premier continua a ignorare le regole, il ministro dell'interno sceglie il nuovo direttore centrale degli affari del culto dopo la cattura del prefetto Franco Lamotta per peculato e falso. Arriva Giovanna Jurato, sotto inchiesta per turbativa d'asta su un appalto truccato a Napoli. Si era pure vantata in una telefonata di aver finto di piangere per le terremotate dell'Aquila. Altra gaffe del ministero, diffonde e poi ritira un comunicato sulla riforma della polizia. Il viaggio del Papa in Brasile, avete visto, è un po' sacrificato sui giornali, vedremo domani ovviamente. Fate casino, il Papa conquista i ragazzi di Rio e spiazza la curia, questa è la sintesi che ne fa il Fatto Quotidiano. Il Foglio, nella pagina variegata del Foglio vediamo lo scontro finale, l'Egitto risponde in massa all'appello dei militari contro gli islamici di Morsi, e poi il titolo in rosso, affittare un utero in India, una ONG fa il punto sul mercato delle maternità su committenza nel paese, una pratica pericolosa al limite dello schiavismo che vale 2 miliardi di dollari, la libertà della madre surrogata è un'illusione, questa è una frase che è stata riportata perché fra virgolette. Il Messaggero, quotidiano di Roma, battaglia su Renzi, PD spaccato, e la fotografia è per il ragazzo siciliano fra le vittime sul treno perché appunto aveva perso l'aereo. La patente a punti anche qui per 14 anni su scooter e minicar, il caso Kazako, insomma vedete che le notizie si stanno davvero rincorrendo. Il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, non poteva che aprire con una bella foto che ci mostra anche qui sempre i colori azzurri della vasca e dei delfini. Scuole fumo vietato anche all'aperto, invece il Secolo XIX mette l'accento su una delle misure che sono state annunciate ieri. Il governo vara 3 disegni di legge, c'è pure lo svuota province, arriva la patente a punti per motorini, abbiamo detto. Promosso il poliziotto nel caso Ruby, scrive il Secolo, grandi avvicinamenti al Viminale, la notizia esce con un comunicato GAF, Ostuni numero 2 a Milano, mobilitò la questura dopo la telefonata di Berlusconi. Allora, Avvenire, eccoci qua, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, dalla croce la vita, la foto è per una bella ragazza che sta baciando un crocefisso, ovviamente nelle giornate della visita del Papa nel paese. Il caso invece che si porterà via tutta la pagina 3 di Avvenire del Pakistan, odissea di Asia Bibi, da 1500 giorni chiede giustizia. E poi la prima pagina è più o meno simile per composizione a quella che vi ho detto prima per notizie, mentre Nobel Lampedusa in corsa, siamo al piedi pagina, presentata a Oslo la candidatura ufficiale. Libero, Letta a 62 miliardi sotto il materasso, dice il tesoretto nascosto, sono accantonati per eventuali emergenze, vanno tirati fuori subito e dati alle aziende per alimentare la ripresina, confermata pure da Confindustria. Poi c'è Benny con le sue ricostruzioni grafiche, questa volta è Letta che sta fumando una sigaretta, però il premier ci butta fumo negli occhi, norme etiche anziché provvedimenti economici. Pietro scrive la guerra nel PD, democratici pronti anche al suicidio per fermare Renzi. Il Giorno, salve le pensioni d'oro, è incostituzionale il super prelievo, l'INPS ora dovrà restituire 40 milioni ai ricchi, i grillini patteggiano l'armistizio, congresso PD e bagarre, voto rinviato, e questo è un sottotitolo pastone, come si dice, tutto insieme. Salve le pensioni d'oro, dicevamo l'apertura, ma la fotografia grande per Cardano al campo, 10.000 funerali della sindaca, tutti con lei. Il Giornale, che mette in evidenza con in rosso meno 3 a che cosa? -3 alla sentenza Berlusconi. Finiremo in balia di Merkel & Co. Schifani, l'inchiesta di Palermo, sarà confermata la mia estraneità. E chi firma è Augusto Minzolini. Sotto, Nicola Porro, troppi divieti, fumo non fumo, ricordatevi che siamo liberali, quando si toccano le sigarette storicamente c'è una grande polemica anche sui giornali. I guai di Epifani e Letta, scoppia il PD, questa è la vera apertura per, se andiamo a vedere la giustezza del carattere, l'apparato del partito vuole cambiare le regole per azzoppare Renzi, ma ormai nessuno ascolta più i dirigenti, costretto a rinviare il voto in direzione. E la fotografia invece è strappalacrime, mamma Bassotta, la cagnetta al latte, gattini abbandonati. Andiamo alla Gazzetta dello Sport. Sentite Torrier, siamo vicini, torno presto, il magnate indonesiano si dice fiducioso alla chiusura del blitz milanese. L'accordo di base è imminente, la definizione fra circa un mese, e Moratti resterà al 30-35%, spunta un nuovo socio. Questa è la grande apertura con la foto del magnate che con un sorriso saluta con una con la mano, e intanto Mazzarri guida la squadra ad Amburgo. Vediamo anche qualche richiamo dalla prima verso le pagine interne. Milan, esame spagnolo, sì, e Sharawi, no, Balotelli. Napoli, c'è Martinez in arrivo, Verratti resta a Parigi. Juve, un nuovo assalto a Zuniga, la chiave sarà Matri. Roma con Totti si sveglia, Garcia, Strootman, ok. E poi ovviamente i richiami per le pagine interne. La Padania, infine, abbiamo anche Italia Oggi. La Padania, basta fumo. Mentre il governo vara la grande stretta sul tabacco, la Lega ottiene di far calendarizzare per l'inizio di agosto il dibattito parlamentare sull'iter delle riforme. Non è ammessa nessuna fumata nera. Abbiamo visto però che il dibattito e le riforme si affronteranno in realtà a settembre. Italia Oggi, dicevamo, nuovi ordini della sanità, riapre il cantiere delle riforme, oltre 600.000 professionisti in attesa di un albo che ingloberà infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e di radiologia. E questa è sicuramente una notizia, la notizia di apertura per loro. Nuovi assunti, lo sgravio del 50% vale anche sui contributi dell'INAIL, le precisazioni del Ministero del Lavoro sull'incentivo introdotto con la riforma Fornero per donne e disoccupati over 50. Nella carrellata ci sta anche, nel minuto che ci separa prima di andare a sentire le condizioni del meteo, una velocissimo sguardo agli allegati. Io donna con Alessandra Mastronardi che ci sorride dalla copertina, Left invece con un severo sovrano che altri non è che il presidente Giorgio Napolitano. Sport Week, possiamo fidarci, l'atletica è andata a pezzi, travolta dal doping. Di donna, un sguardo intenso per Jodie Foster, difendo la mia privacy. Super cervelli, la genialità è genetica o si impara? Moda d'autunno e via dicendo. E poi abbiamo anche classi NBC patrimoni e rosa e senza spine. In Italia solo il 7% dei fondi ha una donna come asset manager. A questo punto andiamo a vedere le condizioni del meteo e poi torniamo sui principali temi della rassegna stampa. In primo piano. Ci rieccoci con la rassegna stampa. Angelo Miotto in studio, proseguiamo. E dopo la carrellata sui titoli, sulle composizioni, le fotografie delle prime pagine, andiamo a vedere qualche cosa di più su alcuni dei temi. Il primo è l'Egitto, sicuramente, che è un caos. La parola questa che ricorre sempre più spesso sui giornali. Ma al di là del caos, andiamo a vedere quali sono le analisi che si fanno nella situazione che non promette a me nulla di buono. Repubblica, morsi in carcere, Egitto nel caos, 5 morti in discorso. scontri con Vanna Vannuccini al Cairo, che dice sembra di essere tornati indietro di 2 anni. Alle rivolte del 2011 nelle strade intorno a piazza Tahrir sono arrivati fin dalla mattina i blindati dell'esercito, i soldati hanno preso posizione, sono rimasti ad aspettare che cosa avrebbe portato la giornata. Gli elicotteri hanno cominciato a sorvolare il centro del Cairo subito dopo la preghiera di mezzogiorno. Saltiamo subito sul Corriere con invece Franco Venturini, che scrive: orfano delle sue illusioni di primavera, l'Egitto si conferma ostaggio dell'incapacità politica dei suoi leader. Il generale al-Sisi, dopo aver allontanato il presidente Morsi, che ora è accusato di complotto, ha chiamato la piazza contro i fratelli musulmani e ieri si sono verificati scontri in molte città. Ad Alessandria, che è la città di cui riporta la foto in prima pagina del Corriere, almeno 5 morti. Andiamo a pagina 13, perché Venturini scrive tra l'altro: non è dunque facendo appello alla piazza che i militari usciranno dal vicolo cieco nel quale si stanno cacciando assieme all'intero Egitto, ed è improbabile che serva a calmare gli animi il tempismo piuttosto provocatorio con il quale la procura ha annunciato proprio ieri mattina che Morsi è accusato di aver complottato con Hamas nel 2011 e per questo resterà sotto custodia almeno altri 15 giorni. Si direbbe che al-Sisi non creda più alla possibilità di prendere a bordo gli islamisti e si prepari dunque a colpirli con decisiva determinazione, ma è proprio da uno scenario del genere che può nascere in questo Egitto che, malgrado tutto, è cambiato, la scintilla della guerra civile. E nell'attesa il generale, dimostrano di essere lui a tirare tutte le fila, svuota il presidente in carica, da lui stesso nominato, ridicolizza l'autorità di governo di transizione, macchia la neutralità super partes che aveva reso popolarissime le forze armate e in definitiva moltiplica i dubbi già forti anche tra i moderati liberali sull'effettiva possibilità di tenere libere elezioni nei primi mesi del 2014. Assolutamente da seguire questa vicenda egiziana che rischia, come avete sentito nelle parole di Venturini, finire in qualche cosa che assomiglia sempre di più a una vera e propria guerra civile permanente. Abbandoniamo l'Egitto subito, veloci, andiamo a vedere che cosa prevedono varie norme varate ieri dal governo. Lo facciamo con il... no, restiamo sul Corriere allora, restiamo facciamo ancora con il Corriere. A che pagina? Andiamo a vedere a pagina 16 e 17, eccoci qua. Le novità, abbiamo medici e lotta ai camici abusivi, abbiamo norme più dure sugli ospizi cosiddetti lager, animali, sanzioni più severe per quanto riguarda l'ambito veterinario, niente sigarette a scuola e fuori, ricreazione senza sigarette, anche i cortili delle scuole diventeranno aree off limits per il fumo, il divieto totale al fumo inoltre nel DDL, nel disegno di legge, non riguarda solo le sigarette classiche e affini, ma si estende anche a quelle elettroniche. Patente a punti anche per minori, avete sentito già nei titoli, si torna a guidare dopo il processo, cioè all'interno della nuova disciplina delle sanzioni del codice stradale, chi viene colto la guida sotto influenza di droghe o alcol non potrà riavere la patente fino a quando non sarà stato definito il procedimento penale. E poi, l'hanno lasciato per ultimo, ma sicuramente a molti ascoltatori interessa di più, insieme al fumo nelle scuole, più tutela prevista anche per l'utenza debole, cioè i ciclisti e motociclisti, dall'adozione di sistemi stradali per una maggiore visibilità notturna alla costruzione di strade che prevedano più infrastrutture a difesa di chi va su due ruote. Nella pagina c'è fumo vietato a scuola anche nei cortili consentito, invece in auto c'è stato scontro su questo punto con un grande litigio, ve ne riportano le cronache parlamentari e di governo fra Bonino e Lorenzin per quanto riguarda appunto il divieto che si voleva introdurre di fumare a bordo dentro l'abitacolo dell'auto quando vi siano dei minori. Andiamo avanti con la politica e siamo su Repubblica. Intanto vi segnaliamo a pagina 52 di Repubblica una cosa divertente, è una pubblicità ma è a sfondo politico, perché è una lettera aperta a tutti i nostri parlamentari di Italy: se cancellate il porcellum, Italy offre porchetta arrosto a tutti i clienti, con una fotografia di una porchetta davvero cotta a puntino, ecco, quindi al di là del marchio Farinetti ci ha messo un tocco politico e anche ironico. Andiamo avanti con, dicevo, la politica per quanto riguarda il PD, la spaccatura sulle primarie con Curzio Maltese in prima pagina, quando le regole cambiano in corsa. Sui tempi, sulle regole per eleggere un nuovo segretario, il PD ha deciso di non decidere. La cosa comincia a non fare più notizia. Il partito che si è caricato sulle spalle i destini del paese non riesce neppure a scegliere la data del proprio congresso. Oltre il latinorum sulle norme da cambiare per la terza o quarta volta, il problema vero ha un nome e un cognome: Matteo Renzi. E poi la penna di Maltese continua a pagina 27. La trappola anti-Renzi comunque non è scattata per l'opposizione trasversale di buona parte del PD. Non soltanto i renziani o i frondisti alla Civati si sono opposti, per esempio Cooper e Rosi Bindi, esponenti della corrente più minoritaria all'interno del centro-sinistra, quella del buon senso. È probabile che le norme contra personam vengano riproposte alla prossima direzione prevista fra una settimana, con il rischio di spaccare ulteriormente il partito, oramai oltre i confini delle leggi fisiche. Nel grandioso dibattito sulle norme congressuali rimane sullo sfondo da definire il dettaglio della possibile reazione di 8 milioni di elettori democratici, ai quali finora sono stati inflitti nell'ordine una campagna elettorale disastrosa, il tradimento dei confronti del padre fondatore Prodi, un governo con Berlusconi, escluso fino un'ora prima, la conferma di un ministro all'interno ritenuto incapace anche da sé medesimo. L'eventuale esclusione dalla corsa per la segreteria del leader più popolare Renzi sarebbe la conclusione di un percorso suicida, alla fine del quale per il PD c'è il rischio di morire, e per giunta di morire democristiano. Bucchi oggi ci regala, come al solito, con la sua grazia grafica, una immagine di Moby Pig, un grandissimo maiale che naviga nel mare, il leggendario e invincibile Porcellum Bianco. Lasciamo Repubblica, andiamo sul Manifesto. A proposito di mare e di acqua, larghe intese contro l'acqua pubblica, scrive Corrado Oddi. L'allarme lanciato venerdì dal Manifesto sull'intenzione politica di far tornare l'acqua di Napoli in mano ai privati è più che giustificato. La proposta di legge della Giunta Caldoro nel ridisegnare i confini degli ambiti territoriali ottimali in cui è suddiviso il servizio idrico in Campania e quindi l'affidamento dello stesso appare esattamente congegnata per provare ad affossare la prima esperienza di ripubblicizzazione definitivamente completata dopo il referendum di 2 anni fa, quella che si è costruita attorno alla nuova azienda speciale ABC. Di Napoli. Chi fosse interessato al tema acqua vada a pagina 15. Ancora di corsa, si sta finendo il tempo, il Sole 24 Ore. Siamo in prima pagina con Unione Bancaria salverà l'Eurozona. Avevamo segnalato prima la intervista a Frédéric Oudéa, trovate a pagina 2. Per far ripartire il credito in Europa serve con urgenza l'Unione Bancaria. E poi, secondo Oudéa, le riforme strutturali sono decisive e andranno implementate con determinazione nel breve periodo. Molto è stato già fatto, altro resta da fare. L'essenziale, dice, è che nessun paese, Italia compresa, dia l'impressione di voler tornare indietro. Questo avviene, all'atero, lo diciamo ovviamente, mentre arrivano i primi segnali di una lenta ripresa, quella che troverete spiegata da Mario Daglio sulla Stampa in prima pagina e poi a pagina 29, quando dice: a passo lento la ripresa si avvicina. E chiudiamo con il Papa e con la segnalazione di quel titolo che avete letto su Il Fatto: fate casino, il Papa conquista i ragazzi di Rio e spiazza la Curia. Avete sentito della Via Crucis sulla spiaggia, quindi aspettiamoci per la giornata di domani altre cronache da un viaggio che non finisce di stupire. Con questo è tutto, un saluto da parte di Angelo Miotto, buona giornata.